La versione di Oscar, di Oscar Giannino. 16:30 primi, 10 secondi in questa giornata che è sì l'anniversario del colpo del 18 Brumaio con cui Napoleone nel 1799 diventa prima console, sì è l'anniversario della caduta del muro a Berlino nel 1989, ma è anche una svolta che non è esagerato definire storica, molto storica, come le due precedenti. Si vedrà poi se la portata sarà altrettanto lunga nel tempo, ma intanto il risultato questa notte delle elezioni presidenziali americane è un risultato che ha ribaltato per l'ennesima volta dopo la Brexit eccetera eccetera le malriposte analisi, sondaggi, interpretazioni che davano Hillary Rodham Clinton presidente praticamente già eletta, visto che mentre iniziava lo spoglio e mentre iniziavano ad arrivare i primi dati, i maggiori generali americani davano le sue possibilità di essere eletta oltre l'80%. Poi si è visto nel corso della notte che tutte le analisi, i sondaggi, i rilevamenti, le interpretazioni, i grandi giornalisti che ogni giorno fanno convegni sui big data eccetera eccetera avevano per l'ennesima volta radicalmente sbagliato, e molti di loro confondevano le loro aspettative, le loro speranze, le loro opinioni politiche, il loro giudizio con la realtà di quello che pensavano gli americani, che invece hanno votato. E come è avvenuto per Brexit, la conta dei voti man mano che procedeva negli stati, gli swing states, quelli che sono, possono oscillare di volta in volta e determinano il vincitore, è diventato sempre più evidente, e quindi il candidato che ha fatto irritare, scandalizzare, messo alla berlina dagli stati maggiori dell'intellettualità, del giornalismo di sinistra, degli scienziati politici di tutto il mondo, è stato quello scelto dagli americani. A dire la verità, nel totale dei voti espressi, Hillary Rodham ne ha preso un po' di più, il 47,6% rispetto al 47,5% andati a Trump. Ma sul conto degli stati, nella distribuzione degli stati, e quindi per aggiudicarsi il voto dei grandi elettori, il risultato per la candidata democratica è stato devastante, perché i grandi elettori guadagnati in quasi tutti gli swing states con la vittoria imprevista da Trump è arrivato alla cifra di 276, mentre Hillary Rodham Clinton si è fermata a 218. Quando ha parlato stamattina, eravamo in onda insieme ad Alessandro Milan, attenti a noi due, Trump ha pronunciato un discorso che ha sorpreso molti, perché dal tono molto diverso da quello tonitruante della sua campagna elettorale che ha irritato tanta gente nel mondo. Ha fatto un discorso di riunificazione dell'America dopo le ferite della campagna elettorale, ha concesso l'omaggio alla Clinton che pochissimo prima gli aveva chiamato, riconoscendogli la vittoria, perché per lunghe ore i democratici e lo staff della Clinton sembravano orientati invece a contestarlo, e quindi ha fatto un discorso di unificazione dai toni molto più moderati di quanto non ci si aspettasse. E questo diventa il primo interrogativo di fondo, cioè cosa della campagna elettorale sviluppata deliberatamente su toni estremi oltranzisti per offrire concretamente all'America che ha detto no a due establishment, a quello democratico dei Clinton e a quello repubblicano che aveva messo al bando Trump sguinzagliandoci 16 candidati contro di lui nelle primarie. Ecco, gli elettori americani a maggioranza negli stati hanno detto no a entrambe queste cose, no all'establishment da una parte e dall'altra, lontano dall'interpretare i molti toni della protesta dei corpi intermedio della società americana, attenti a considerarla solo la protesta degli operai, dei blue collars eccetera. Insomma, si calcola che in realtà il reddito medio dell'elettore medio di Trump sia parecchio più elevato di quello degli operai, che pure hanno votato in tutto il Rust Belt a maggioranza per Trump. Ma, e qui mi fermo, tenete conto che il risultato dell'interpretazione della voce fuori dall'establishment, e adesso ci interrogheremo, ci aspetterà davvero una ripulsa del libero commercio, a cominciare con i 5 stati con cui è più esposta nella bilancia commerciale gli Stati Uniti, cioè la Cina, Giappone, Taiwan, la Corea del Sud e il Messico oppure no, perché potrebbe derivare un'ondata protezionista in tutto il mondo. Sui tagli alle tasse io mi aspetto che invece sia coerente, perché la Camera e il Senato sono rimasti repubblicani, e se anche dominati dall'establishment stile Trump, voglio vedere come fanno adesso a mettergli contro. Vedremo tutte queste cose, ma se andiamo alle prime scomposizioni, interpretazioni del voto su Washington Post, è evidente che è una vittoria che ha sconfessato tutti quelli che credevano fosse arrivato sconfitto e in ginocchio all'appuntamento elettorale Trump, perché hanno votato per Trump il 61% degli elettori bianchi uomini, il 52% delle donne bianche, quindi non ha funzionato la carta, la prima donna alla Casa Bianca che aveva giocato potentemente Hillary Clinton. Hillary tra gli elettori maschili non bianchi ha preso il 54%, ma Obama era al 61%, oltre ad aver avuto anche la maggioranza degli elettori bianchi, e quindi da questo punto di vista è stata proprio toppata l'analisi del voto degli americani, toppato anche chi aveva detto che non avrebbe mai preso i voti dei repubblicani, dopo che moltissimi dello Stato Maggiore avevano addirittura dichiarato che votavano per la Clinton. I Bush hanno votato scheda bianca, perché invece secondo le prime analisi Trump porta a casa l'88% del voto dell'elettorato repubblicano, toppato chi diceva che negli elettorato dichiaratamente religioso, il libertino, assaltatore di donne, violentatore di donne, non avrebbe mai potuto immaginare di prendere voti, perché il Washington Post ci dice ha preso il 78% dell'elettorato potenziale evangelico. Ecco, queste sono alcune delle cifre, per così dire, che spiegano questa cosa che lascia il mondo sorpresissimo. Sconfessato anche chi diceva che i mercati sarebbero saltati, perché indici di borsa Wall Street Journal, di Wall Street, perdonate, sono in territorio positivo. L'Europa perdeva parecchio stamattina, poi ha recuperato, anche se resta ancora col segno meno, ma il mercato americano ha il segno positivo. E i primi a congratularsi la Le Pen dalla Francia, e questo vuol dire molto, come ovvio, sulle destre europee che scommettono che il successo di Trump porti a un'ondata ancora più forte di voti in Europa, a cominciare dalle elezioni francesi di marzo. Putin festante, la Duma russa si è alzata in piedi con un grande applauso alla notizia che Trump aveva vinto, e Putin ha subito immediatamente detto regolarizziamo i nostri rapporti, quindi risediamoci a un tavolo, parliamo delle grandi questioni aperte, no alle sanzioni. Invece tra la reazione probabilmente più fredda, più sorpresa e apertamente anche quasi ostile, quella di Hollande in Francia, quella di Schulz, presidente del Parlamento europeo, tedesco e socialista, ma in generale questa sorpresa ha cambiato sicuramente il corso della storia. Le élite non riescono a capire che se vogliamo difendere il suffragio universale dobbiamo accettare che anche quelli che sono considerati dalle élite sporchi, brutti, puzzolenti, maleducati e cattivi votano come gli altri e non votano come vogliono le élite. La grande crisi di credibilità delle élite dei grandi paesi del capitalismo occidentale è nata nel 2008 e a distanza di 8 anni si esprime ormai apertamente nel voto di paesi con segni diversi, dall'Ungheria alla Polonia, dalla Francia alla Gran Bretagna su Brexit, agli Stati Uniti, ma è un fenomeno di crisi precisa. Le classi dirigenti continuano a non capire che l'Occidente, malgrado la sua ricchezza, malgrado il suo benessere, eccetera, eccetera, ha milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di persone che non si riconoscono più nei vecchi metodi, e questo è un problema enorme di rappresentatività della politica, non di incapacità di elettori beoti, illetterati, emotivi, che ragionano solo con la pancia. È una questione enorme, perché aggredisce l'incapacità di farsi interprete di questi sentimenti, e più ci sarà questa incapacità, più, come si vede di paese in paese, anno dopo anno, questi fenomeni trovano espressioni proprie che battono i candidati dell'élite e dell'establishment. Fenomeno che riguarda anche l'Italia, vedremo che sviluppi avrà. Ma intanto, come abbiamo fatto questa mattina, chiamando ai nostri microfoni uno dei pochissimi giornalisti italiani che non si riconosceva nel grande tamburo prevalente dell'orchestra che diceva Trump è morto, non è mai stato un candidato credibile, la Hillary ha già vinto, e abbiamo chiamato Marcello Fa, lo stesso faccio oggi pomeriggio, dando atto che tra i pochissimi che durante l'intera campagna elettorale, oltre che nelle primarie prima, invece hanno continuato a produrre analisi dicendo guardate, vi sorprenderà, Trump è in condizioni perfettamente di vincere, non capite nulla, non date retta ai sondaggi e ai big data prevalenti, ecco, ho chiamato un altro dei pochissimi, cioè Maria Giovanna Maglie, giornalista, ex giornalista Rai, ha scritto per tante testate, per il Foglio eccetera eccetera, chi legge Dago Spia ha trovato tutte le settimane 3, 4, 5, 6 analisi a settimana in cui in tutti questi mesi ha continuato di volta in volta a seguire l'aggiornamento delle primarie e poi della campagna per le presidenziali, di volta in volta sottolineando dati, tendenze, dichiarazioni, fenomeni all'interno della società americana che dicevano sempre che l'opzione Trump era non solo ancora aperta, ma che era potenzialmente e realisticamente vincente. Grazie Maria Giovanna Maglie per quello che hai fatto in questi mesi, una lezione per moltissimi di noi, e io sono curioso di capire come hai vissuto questa notte e che cosa ci dici adesso di quello che secondo te ci aspetta da parte di Trump. Buonasera agli ascoltatori, buonasera Oscar, grazie della introduzione, ci è voluta un grande sprezzo per l'ansia di consenso in questo anno, io per fortuna di ansia di consenso non soffro fino alla essere spericolata e sono andata avanti. E tu hai descritto bene il fastidio che può animare qualcuno che non voglia sottostare a quel conformismo che per più di un anno, da giugno dell'anno scorso, si è tentato di imporre a tutto il mondo come una cappa su queste elezioni. Io non sono partita trampiana perché un giornalista non dovrebbe fare questo, sono partita indignata dall'antitrampianismo, se posso adoperare un neologismo. Ieri sera io ero convinta, indipendentemente dalle inchieste dell'FBI, ero convinta di tre o quattro cose che sono rimaste costanti nella campagna elettorale e che non potevano che arrivare a Red Nation e che tu hai ben semplificato. La prima è che il Partito Democratico più che mai era diventato il partito del tax and spend. E che il suo candidato, che doveva essere il terzo mandato di Barack Obama, nonostante fosse una donna e c'è stata tutta la retorica politica di corretta della donna, era il candidato sbagliato, identificato totalmente con l'establishment, una dinastia che si è arricchita con la politica, una donna opaca, ambigua, con una fondazione che ha mescolato gli interessi privati a quelli pubblici, e con un disastroso periodo da segretario di Stato. Questo era anche il mio giudizio, non c'è dubbio. Un outsider contro il partito, che non è vero che non si era attrezzato a vincere il Partito Repubblicano, si era attrezzato e come? Certamente male, perché aveva dimenticato che a partire dal Tea Party in avanti, della rivolta della base, il Partito Repubblicano aveva espresso una crisi dei suoi elettori e militanti. Ma aveva schierato 16 persone alle primarie del New Hampshire, cioè, e alcuni erano personaggi di primo calibro che intendeva portare avanti e fare eleggere, i Rubio, i Bush, i Kasich, i Christie e così via. Non erano adeguati, quindi era l'establishment che non andava bene, era quel partito repubblicano che non funzionava più. Ho cominciato a pensare che il Partito Repubblicano non era più il partito dei ricchi abbienti e il Partito Democratico non era più il partito dei derelitti, che le cose si erano mescolate malamente. E poi a un certo punto, in un paio di viaggi, mi ha veramente folgorato l'idea che la stessa crisi dell'Occidente, che da Ratisbona in avanti è chiara a qualcuno no, e che in Europa è molto più volgarmente semplificata, non volete i profughi, non volete i clandestini, siete razzisti, bisogna accoglierli e così via, là nel regno, nella Repubblica del Melting Pot, si stava rivelando nel modo più brutale possibile, e cioè la maggioranza bianca, sempre pronta ad accogliere secondo le regole del mondo nuovo, si ritrovava a ritenersi, a credersi minoranza soverchiata società, minoranza soverchiata, e questo era peggio della crisi economica, peggio dei residui negativi di una globalizzazione spesso forzata e imposta in modo dirigista dall'alto. Questo era la cosa peggiore, la crisi di identità che potesse capitare in quel paese. Credo che se non avessi visto Gran Torino, grande film di un grande americano, Clint Eastwood. Uno dei pochi del sistema delle star americane che ha detto: bah, non è che mi convinca in tutto, però da quello che vedo e so dall'America io sto con Trump. Uno dei pochissimi. Contro la Pussy Generation. Aver visto Gran Torino con quella zona industriale così desertificata, quella crisi di quei suburbi, credo che mi abbia molto in qualche modo ispirato. Ieri sera io ero certa nei miei calcoli che Donald Trump avesse fatto il miracolo di andare ovunque non andava Hillary Clinton e la sua campagna. Tutti dichiaravano che la campagna elettorale di Hillary Clinton era un caterpillar che non lasciava niente al caso. Ma Hillary Clinton, in certi posti del paese, anche nei suoi stati, negli stati cosiddetti del Blue Wall, non ci ha messo piede, né lei nella sua grandissima corte. È andata soltanto nei grandi centri, nelle grandi città, nei college, nelle università, nelle sedi di alcune aziende, anche un po' fighette. Cioè, è andata in realtà lei e Obama con il suo giro a convincere i convinti. Donald Trump è andato in alcune zone, quelle della grande America rurale, che oggi sento che in televisione chiamano l'America profonda, l'America più profonda, roba da mettere mano alle armi. Sì, se sento dire ancora una volta l'America profonda, giuro che forse sparo. Ma sai perché dicono l'America profonda? Perché in Europa c'è questa convenzione, cioè East Coast, West Coast. L'America si governa di là, dove sono le elite. Sì. Tutto il resto, robaccia. Che vuoi che sia? Esattamente, l'America delle grandi città, East Coast e West Coast, sono quelli a cui ci degniamo di rivolgere la parola. E gli altri fanno schifo. Allora, lui in quell'America lì è andato a battere anche capannoni o campi con 4 persone, con 5 persone, con 20 elettori, fino a che tutti questi hanno riempito le piazze. E qualche giorno fa un mio amico che abita nell'America più profonda mi ha detto: ricordati che se anche viene l'alluvione gli elettori di Trump ci vanno a nuoto. Allora, aspetta che adesso abbiamo un minuto di informazione stradale, però io ti devo dire, da parte dei nostri ascoltatori dicono: dite quello che volete, è chiaro il fenomeno di cui state parlando e la crisi, però Trump ha troppi difetti, cioè parla come un pazzo, ha detto delle cose che non stanno in cielo né in terra, abbiamo paura. Allora, questo che è un sentimento diffuso, è trasversale, ce l'hanno qua persone di tutte le opinioni politiche o che magari non va a votare, ecco, io ti richiedo di partire dopo il minuto di informazione sulle strade da questo punto qua. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a interrogarci sui motivi per cui in più dell'industria dell'informazione, dell'interpretazione dei dati, della scienza politica ha toppato di nuovo clamorosamente sulle elezioni presidenziali. Trump ha vinto, anzi ha stravinto, il mondo rimane sorpreso, noi stessi ci dobbiamo interrogare su come facciamo sto cacchio di mestiere e su perché ci siano queste linee editoriali così mainstream che calano dall'alto al di là dei fatti. Con noi Maria Giovanna Maglie, una giornalista e scrittrice che da sempre invece ha prodotto analisi che andavano controcorrente su questo, non per adesione personale, perché sei una trampista, ma perché diceva: guardate, troppe cose si vedono che fanno pensare che questa ipotesi può andare in porto e vincere rispetto al ripudio che viene da una vastissima parte dell'America, quella meno forse coperta e rappresentata dall'elite, contro i doppi establishment, quello dei Clinton democratici ma anche quello della vecchia establishment repubblicano, che magari 8 anni di sberle prese alle elezioni parziali dove vincevano i candidati dei Tea Party non ha capito e crede ancora di poter governare dall'alto con un candidato all'establishment busciano, per capirci, le presidenziali, doppio no e vittoria di Trump. Allora, ripartiamo dalla paura. Io però ti propongo, Maria Giovanna, di sentire ancora anche due ascoltatori tra i tanti che ci telefonano, così rispondi anche a loro. Cominciamo con Paolo da Torino. Paolo, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Premesso che ho una visione un pochettino diversa dal punto di vista politico e economico rispetto alla sua, nel senso che non contesto un po' quello che sono le regole del liberismo economico. E ritengo che i risultati che stiamo assistendo, prima con la Brexit e ora con le vittorie di Trump, sì, siano da ricondurre appunto a questa visione politica economica. E ritengo che il populismo andrà avanti fin quando la sinistra non inizierà a fare la sinistra, e quindi solo così potrà essere sconfitto questa diciamo vulgata di liberismo economico che sta creando l'impoverimento della classe media, che si sta rivoltando contro sia diciamo chi ha visione di destra che di sinistra. Paolo, io rispetto il suo punto di vista, che effettivamente non è il mio, le ricordo solo che gli anni di Obama, gli 8 anni di Obama, sono quelli che con Obamacare hanno visto l'intermediazione pubblica del reddito nazionale salire di 5 punti di PIL con Obamacare. Mica c'era un liberista fottuto a governare l'America in questi anni, eh? Cioè proprio direi proprio di no. Quanto al nostro paese, sa, sono abituato a sentir dire che è colpa del neoliberismo anche se piove, però finché c'è la spesa pubblica oltre il 50% e una pressione fiscale inchiodata a livelli pazzeschi, il neoliberismo, mi perdoni se mi passi la corretta espressione, ve lo sognate la notte, perché qui non c'è mai stato, qui sta, sono stataliste le destre e le sinistre, tanto è vero che fanno le stesse cose nella politica economica, che lei sogna una sinistra diversa da questa, lo capisco, però intanto i fatti, per me i fatti, non lo voglio convincere, sono questi. Sentiamo anche Marco da Bologna, prego Marco. Buon salve Giannino, buonasera, intanto grazie. Quello che volevo dire io, era l'interrogativo era questo, cioè il giornalista che lavoro fa, nel senso, deve perché se deve tastare il terreno di quello che succede sul campo, allora mi viene da pensare che o tutti questi giornali, che se non sbaglio erano 325 dalla parte di Hillary e solo 9 dalla parte di Trump, allora mi viene da pensare che o questi giornalisti sono incompetenti, ma non credo, oppure sono assolutamente servi, corrotti, come assolutamente come avviene anche in Italia. Ma guardi, io adesso non adesso io non voglio dire, guardi, prima della corruzione ci sono, per così dire, le influenze ambientali. Cioè le influenze ambientali sono fortissime, è l'autocondizionamento dei giornalisti, non è tanto qualcuno ti ordini. Poi io sono stato licenziato più volte, ma pure c'è anche gente, diciamo così, un po' più pronta a mettersi in discussione e a farsi licenziare, ma non è questo il punto. Il problema è l'autocondizionamento. Quando ci sono fenomeni dall'elite, dall'alto, l'elite piacciono le proprietà dei grandi gruppi editoriali, parliamoci chiaro, e allora lì si va. Poi bisogna essere capaci però di interpretare i dati senza mandare il cervello all'ammasso, lo fanno un pochi, questo è il problema. Questo spiega perché abbiamo voti in tutto il mondo occidentale sempre più a sorpresa, non perché tutti prendano i soldi e sono corrotti da una cupola dall'alto, ma questa è la mia opinione. Allora Maria Giovanna, la paura e queste altre osservazioni dei nostri ascoltatori, come si fa a dire ma io ho paura di quell'uomo per quello che gli ho sentito dire? Tu che gli dici? Ci sono delle ragioni obiettive. Donald Trump ha scelto un linguaggio brutale perché sapeva che quella gente in più che avrebbe dovuto conquistare di quel linguaggio sentiva il bisogno, perché ha un carattere di un certo tipo e perché, non essendo un uomo della politica, ma un outsider, se lo poteva permettere. Questa è una premessa. Dopodiché, se vogliamo entrare nel novero, nel merito delle cose, tra le cose che vengono attribuite di terribili a Donald Trump c'è la storia del muro, il muro col Messico. Quando Donald Trump ha detto dobbiamo fare un muro con delle frontiere da cui partono degli illegali, dei rapinatori, degli stupratori, erano appena accadute un paio di vicende piuttosto gravi come quella di San Bernardino. Si era capito che questa frontiera americana era una frontiera colabrodo e lui ha usato un termine efficace, quello di alzare un muro. Vorrei ricordare che di muri si parla ormai liberamente, più o meno degnamente, in tutta Europa, non solamente là. E vorrei anche ricordare che chiunque sia stato almeno una volta a un confine con il Centro America, con il Messico, sa che i muri ci sono, solo che vengono bucati, violati, che vengono violati, passati. Non è che a Tijuana un muro non ci sia, un certo tipo di muro non ci sia. E quindi tu dici, e in realtà è usato un linguaggio corretto per significare un problema. Idem con la storia del bando temporaneo ai musulmani nel paese, al terzo quarto attentato terroristico ha detto fermatevi un attimo. Certo, anche quello sia politico. Ma Giovanna, io ti devo fermare perché il tempo è finito, ma io ti do un altro appuntamento, perché siccome non finisce qui la novità, con te mi prendo la libertà di dirti che ti convocherò più volte per